Io, soltanto io, tutto ciò che penso è mio. Quello che dico a te è soltanto una piccola parte di me. No, non conosci affatto il mio pensiero sincero. Per adesso, tutto ciò che dico lo trovi in un altro qualunque. La mia fantasia non ha mai raggiunto limiti. La mia poesia non la trovi in giro, è soltanto mia. Una poesia nascosta tra queste righe. Righe di pensieri di ieri, di oggi, dei prossimi anni. Pensieri nascosti tra le nuvole di questo cielo. Così spento, nascosto da un velo nero. Con qualche stella da sperare. E rimango zitto a trovare la verità. Quella che non c'è, quella che non esiste. Ed è per questo che non smetterò mai di pensare. E adesso mi porto fra le dita qualche delusione, un rimpianto, una passione. Quella che nasce da bambino e dico raramente muore con l'anima immobile. Rimango immobile, analizzo ogni tua parola, ogni tua azione, ogni tuo sguardo e cerco di conoscerti, ma rimani sempre uguale ad ogni uomo. Perdono, a volte non riesco a farmi capire. Vorrei fuggire, scappare soltanto da te, cioè dal mondo. Magari sbaglio, sbaglio come sempre con la mia mente antica. Magari penso come te, ma non è finita. Domani cambierò idea, domani sarò un altro e dirai: ehi, non ti riconosco più. E la ruota gira, gira e tu rimani fermo in silenzio ad aspettarmi. Ti prego, corri più fretta che puoi, che per raggiungere me ce ne vuole di tempo. Attento, potresti cadere. Vederti lottare mi fa cadere il cuore. Se non vuoi, lascia perdere me, ritorna insieme ai tuoi. Mi dispiace, chiedo scusa se non sono il tuo tipo. La tua mente non arriva a certi miei difetti. Perdenti, vi vedo ridere, ma cazzo vi ridete. Avete 100 anni a disposizione, già 20 sono andati via senza un vostro pensiero. Tutto ciò che pensate è frutto di chi ha inventato e ha parlato, non ha avuto problemi, incantato. E tu ancora chi stai lì a crederci, non sei nessuno, non ne hai fatto 13, bla. Ancora ci speri, ma non sai nemmeno quello che scrivo. Non sai dare una spiegazione a queste parole, perché la mente è soltanto tua. State a impegnarti a vivere, ad ascoltare la tua anima. Ascoltare la tua anima, se chi sei, veramente, pensaci bene, chi sei tu, ci hai mai pensato, non hai mai pensato a quello che potresti essere, vuoi ancora essere come gli altri, non hai mai pensato, non hai sperato l'idea di essere una persona che fa la differenza, che può sorprendere, far camminare la gente con un modo di vedere il mondo più aperto. Spero soltanto che tra le mie parole non confondi un ragazzo qualunque da me.